Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi si vota in Germania, sono elezioni importanti, non del tutto scontate per quanto riguarda la coalizione di governo che uscirà da queste elezioni, ma sicuramente decisive per le sorti anche dell'Europa, oltre che naturalmente per quel paese. Quindi parliamo di questo appuntamento con un studioso, un grande esperto di Germania, è stato anche direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino, Angelo Bolaffi, che ha appena pubblicato con Donzelli Cuore tedesco, il modello Germania, l'Italia e la crisi europea, 266 pagine, 18 euro. Bolaffi esamina in particolare in questo libro il tema dei rapporti tra Germania e Italia e vedremo fra breve in che termini e soprattutto approfondisce il tema del ruolo che la Germania può svolgere, un ruolo al quale forse la Germania appare molto spesso riluttante ed è invece un ruolo molto importante soprattutto alla luce della crisi dell'europeismo di cui in fondo proprio la caduta del muro di Berlino è stato una delle cause che ha innescato la decadenza di quell'ideale. Ma di questo parliamo appunto con Angelo Bolaffi. Buongiorno ad Angelo Bolaffi. Buongiorno. Angelo Bolaffi, lei parla nelle prime pagine del suo libro come di una Germania perturbante. In che senso? Perché usa questo aggettivo? Beh, perturbante perché per storia, per forza e per condizioni geopolitiche. Perché la Germania, sì, dal tempo di Bismarck ha rappresentato un problema per l'Europa, è troppo grande, è troppo potente, è troppo efficiente e questo ha rappresentato una sfida agli altri stati nazionali. Oggi la situazione è cambiata, ciò nonostante questa asimmetria di potenza esiste e gli altri europei faticano a farci conti. Ecco, a proposito di quest'ultimo aspetto, lei sottolinea il fatto che fra i nostri due paesi, fra l'Italia e la Germania, esista un rapporto che lei definisce particolare, non speciale, particolare, e che questo rapporto naturalmente è andato cambiando in questi ultimi anni. Ecco, in che senso si può parlare di un rapporto particolare fra i nostri due paesi? Ma guardi, questo del rapporto particolare tra Italia e Germania l'ho voluto sottolineare in qualche modo in contrapposizione alla relazione speciale che hanno con la Germania e con la Francia. Con la Francia la Germania ha un rapporto di sangue, diciamo così, nel senso che è legata da un secolo e mezzo di guerre. Con l'Italia, dove ovviamente ci sono stati anche momenti bui, pensiamo agli anni del 43-45, però in fondo per i tedeschi l'Italia è sempre stato un punto di riferimento culturale, prima che politico o di potenza. Questo ha facilitato un rapporto più disteso, meno intrecciato con la storia. I tedeschi amano l'Italia, qualche volta non la rispettano, però amano molto l'Italia. E questo ha consentito che soprattutto nel secondo dopoguerra, quando si trattò di cominciare a avviare il processo europeista, tra Italia e Germania, due paesi ricordiamolo che erano arrivati a diventare stati nazionali quasi contemporaneamente, cioè alla fine dell'Ottocento, a differenza degli altri grandi nazioni europee come Inghilterra, Spagna e Francia, e questi due paesi usciti tramortiti dalla Seconda Guerra Mondiale collaborarono più degli altri intensamente al progetto europeista e questa cosa ha funzionato bene, pensiamo che Adenauer e De Gasperi tra loro parlavano in tedesco, questa cosa ha funzionato bene e quando l'Europa era in difficoltà il tandem italo-tedesco l'ha tirata fuori dalle secche dell'eurosclerosi, così si chiamava, purtroppo questa intesa cordiale, questa relazione particolare si è interrotta alla fine degli anni 90, con la fine della prima Repubblica Italiana. Da allora il rapporto tra Italia e Germania è diventato molto molto difficile. Ecco, poi c'è un elemento che ha colpito questo rapporto ed è la crisi dell'europeismo che lei scrive è stato travolto dalle macerie del muro e che non è una crisi solo italiana. Beh, guardi, il problema è che la caduta del muro di Berlino ha cambiato strutturalmente le coordinate geopolitiche e geoeconomiche dell'Europa. Questo ha scardinato letteralmente il progetto europeista nato negli anni 50 con Monnet, De Gasperi e Schuman, un progetto che in fondo era rivolto ad un'Europa divisa dalla guerra fredda e dal muro di Berlino. caduto il muro di Berlino, il baricentro dell'Europa si è spostato dal Reno all'Elba, e questo ovviamente, se poi pensiamo che la caduta del muro di Berlino ha coinciso col grande fenomeno della globalizzazione, sarebbe troppo complicato adesso studiare chi e che cosa è stata la causa di chi, se l'uno o l'altra. Comunque, questi due fenomeni hanno marciato insieme: globalizzazione, caduta del muro di Berlino, fine della guerra fredda, nuova epoca tecnologica di internet, questi grandi rivolgimenti che sono avvenuti contemporaneamente dopo il 1989, cioè due secoli dopo l'altro 89 europeo, cioè quello della rivoluzione francese, e questo ha rimesso in discussione tutto quanto il progetto europeista, e la crisi attuale in fondo è l'esito di quella grande svolta. In questa grande crisi la Germania ha svolto tra l'altro un ruolo importante, perché ha avviato delle riforme molto coraggiose e molto efficaci, come dimostrano adesso i risultati economici. Lei su queste riforme si sofferma in particolare, come le giudica? Beh, guardi, sono riforme molto dure, molto aspre, e che però in qualche modo hanno consentito alla Germania di salvare la sua capacità di competizione a livello globale e al tempo stesso di salvaguardare i cardini fondamentali dell'assetto sociale, quello del compromesso del welfare moderno, dello Stato sociale. In fondo in Germania continua la collaborazione tra sindacati e operai. Faccio l'esempio per tutti: c'è stato i dividendi alla Wolfsburg della Volkswagen, e nonostante tutto lo Stato sociale tedesco, ad eccezione di quello miracoloso dei paesi scandinavi, rimane il più generoso in Europa, e ciò nonostante le imprese tedesche riescono a competere a livello globale financo ad arrivare a competere con la Cina. Questo secondo me è un modello che andrebbe imitato, e che gli altri paesi europei, l'Italia, a cominciare dall'Italia, esito a voler prendere atto in qualche modo che bisogna cambiare, bisogna ristrutturare un sistema che non funziona più. Ecco, a proposito del ruolo del rapporto tra Germania e gli altri, lei conclude il suo libro invitando la Germania a esercitare la leadership. Ma in che direzione dovrebbe esercitare questa leadership, e come si può rendere accettabile questa leadership sugli altri paesi europei e non soltanto? Ma guardi, come può essere esercitata questa leadership? Io penso che già avvenga, di fatto, con l'insistere determinato, nonostante le proteste, nonostante i malumori, nonostante spesso anche il rinascere di odiosi pregiudizi e provocatori paragoni, penso all'immagine della Merkel con i baffi a Hitler, e penso l'insistere della cancelliera perché i paesi in difficoltà economica facciano le riforme. Beh, questo secondo me è già un fatto di fare una leadership esercitata nei fatti. Che gli altri paesi l'accettino, ma questo dipende un po' dalla saggezza e dalla lungimiranza delle classi politiche. Certo, se le classi politiche pensano di speculare, come dire, agitando davanti agli occhi dell'opinione pubblica lo straccio rosso dell'antigermanesimo per mantenere lo statu quo, credo sia un calcolo molto miope, che comunque il mondo globale, la competizione, sarà lui a mettere in crisi. Mentre noi parliamo, professore, i tedeschi stanno votando. Che cosa si aspetta dalle elezioni di oggi? Ma guardi, io penso che ci sarà una conferma quella stabilità che da decenni caratterizza il sistema tedesco. Certo, rimane un punto, adesso vedremo stasera. Vedremo se questo partito anti-euro dell'Alternative für Deutschland entrerà o meno in Parlamento. Sarà una grande sfida, sarà in fondo quello è il vero punto interrogativo. Che la Merkel uscirà vincitrice mi pare fuori discussione, anche se si dovrà poi vedere quale sarà la coalizione di governo. Il problema è vedere se questo mood europeista o anti-europeista si farà sentire. Grazie ad Angelo Bolaffi, buona domenica. Arrivederci. Sulla Germania e sui suoi traumi recenti, in particolare la divisione provocata appunto dal muro, vi segnalo un romanzo di Brigitte Reimann, che è una delle maggiori scrittrici tedesche di questi ultimi anni. Il libro si intitola Fratelli, è pubblicato da Voland, 154 pagine, 15 euro, ed è tradotto da Monica Pesetti. L'autrice affronta qua il tema della divisione nella famiglia. Siamo infatti nella Germania del 1960, quindi prima della costruzione del muro. Ci sono due fratelli, Elisabeth e Uli, che sono molto attaccati, molto vicini, ma che subiranno un duro trauma per la differenza delle posizioni che ciascuno di essi assume nei confronti del regime, che porteranno il maschio alla decisione di seguire il fratello maggiore e di rifugiarsi a ovest. Questa decisione fa indignare la sorella. Elisabeth sente quasi come un tradimento anche del proprio legame al fratello questa decisione, e questo trauma la porterà addirittura al tradimento a sua volta. È interessante leggere del travaglio di Uli, ma anche gli appigli ai quali Elisabeth si attacca per rimanere fedele, lei che a un certo punto sarà anche sottoposta a un grottesco processo in sezione per aver osato criticare un modesto artista di regime. E rispetto a lei il fratello invece ha capito tutto, ha capito la vuotezza del regime quando per esempio dice: mi dispiace, ma nel cervello ho un setaccio che non trattiene le frasi fatte. E insiste all'osservazione della sorella: l'errore è proprio quello di credere che a forza di ripeterle le vostre verità a buon mercato diventino più vive. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso andiamo un po' indietro nel tempo, precisamente andiamo nella Francia del Re Sole, dove divampò uno scontro che è rimasto epico, quello tra la Chiesa ufficiale del tempo e i giansenisti. Tra l'altro quest'anno ricorre il terzo centenario della bolla con cui il Papa dell'epoca, che era Clemente XI, condannò quel movimento religioso. Epicentro dello scontro fu l'abbazia di Port-Royal, dove si era raccolto un cenobio di religiosi ed intellettuali, anche laici, fautori di una visione rigorosa e ascetica che li fece sospettare di complicità o connivenza col giansenismo e che portò addirittura alla distruzione dell'abbazia ordinata nel 1710. In quell'abbazia era stata religiosa una donna dal nome celeberrimo, Jacqueline Pascal, che era la sorella di Blaise, il grande filosofo e scienziato. E proprio della Pascal esce adesso un libro che vi propongo, Il coraggio delle fanciulle, una raccolta di lettere curate da Silvana Bartoli per Et al, 124 pagine, 15 euro. La vocazione di Jacqueline era stata molto contrastata, il padre non aveva voluto assolutamente acconsentire che lei si facesse suora, e anche il fratello, dopo la morte del padre, aveva fatto molte storie. Blaise Pascal in quell'epoca era attento più alle cose del mondo che non ai richiami spirituali, e aveva in particolare contestato alla sorella l'entità della dote che questa voleva portare al convento. Ma insomma, finalmente Jacqueline entra in convento, e due anni dopo la svolta, anche Blaise sarà molto vicino all'ambiente di Port-Royal. E in queste lettere troviamo la testimonianza non soltanto della tensione spirituale di questa donna, ma soprattutto dello scontro al centro del quale si trovò Port-Royal e le suore che la popolavano. In particolare la Pascal rivendica il diritto delle suore di non sottoscrivere una dichiarazione di ortodossia che erano state comandate di sottoscrivere per dimostrare la loro fedeltà all'ortodossia ufficiale della Chiesa. E su questo tema si accenderà uno scontro che all'epoca fece scandalo, e in una lettera troviamo il senso del titolo, perché a un certo punto la Pascal spiega la posizione proprio delle sue compagne scrivendo: poiché i vescovi hanno un coraggio da fanciulle, le fanciulle devono avere un coraggio da vescovi, ma se non tocca a noi difendere la verità, tocca a noi morire per la verità. Una donna che si è anch'ella ritirata dal mondo, di tutt'altro genere, contemporanea a noi, e che ha dato un contributo importantissimo alla cultura dei diritti civili, è Harper Lee, l'autrice del long seller Il buio oltre la siepe, il libro del 1960 che tuttora vende ancora 1 milione di copie all'anno e dal quale fu tratto il fortunatissimo film di Robert Mulligan con Gregory Peck. un film di 2 anni successivo al libro. Addirittura questo libro i bibliotecari inglesi hanno votato in un sondaggio come quello che ogni adulto dovrebbe leggere prima di morire. La Bibbia si è piazzata al secondo posto. E la vita, il caso di questa scrittrice, ripercorriamo nel libro Oltre la siepe, alla ricerca di Harper Lee, di Silvia Giagnone, pubblicato dalle edizioni dell'Asino, 94 pagine, 12 euro. Il libro è particolarmente interessante perché ricorda anche la curiosa parabola letteraria dell'autrice, che dopo questo straordinario capolavoro non riuscì a scrivere più nulla, salvo un manoscritto misterioso che avrebbe completato, ma che le sarebbe stato altrettanto misteriosamente rubato. E si parla qua dell'ambiente in cui è nata l'ispirazione del libro, in particolare del padre, che era un avvocato lui stesso, che ispirò la figura di Atticus Finch, il personaggio interpretato da Gregory Peck, e dell'amicizia col suo grande amico d'infanzia Truman Capote, che fu poi rotta dallo stesso scrittore che, per invidia del successo planetario dell'unico libro della sua amica. E per chi voglia rileggere il libro di cui stiamo parlando, Il buio oltre la siepe, pubblicato da Feltrinelli, 10,20 euro, 318 pagine, con la traduzione di Amalia D'Agostino Schanzer. Torniamo al tema della spiritualità con una figura che è stato un protagonista della spiritualità del nostro tempo, e cioè Don Luigi Giussani, il prete carismatico, fondatore di Comunione e Liberazione, al quale è dedicata una monumentale biografia di Alberto Savorana, giornalista, lui stesso vicino a Comunione e Liberazione, anche responsabile dell'ufficio stampa di questa istituzione. Il libro si chiama Vita di Don Giussani, pubblicato da Rizzoli. 1352 pagine, 25 euro. L'opera vuole essere soprattutto una motivazione a conoscere meglio il pensiero di Don Giussani, che ha dato certamente un contributo essenziale alla definizione di una nuova religiosità e di un nuovo impegno dei cattolici nella vita sociale. Era nato a Desio nel 22, è morto a Milano nel 2005, era stato ordinato prete nel 45, diventò poi insegnante e animò Gioventù Studentesca per fondare poi negli anni della contestazione appunto Comunione e Liberazione. In queste poche date naturalmente non possono trasmettere la pienezza e la ricchezza dell'esperienza di Don Giussani, ripercorrendo la quale Savorano ci dà anche un quadro approfondito di mezzo secolo di società e di chiesa italiana. E dal libro vi propongo un brano che esprime il rimpianto di Don Giussani per un incontro impossibile che egli avrebbe voluto compiere ma che non si realizzò, quello con Pierpaolo Pasolini, che lui particolarmente apprezzava. Giussani racconterà con rammarico l'episodio del suo mancato incontro con Pasolini. Quanto mai quella sera non l'ho accostato. Aspettavo l'ultimo aereo che partiva da Milano verso Roma, distratto da Monsignor Pisoni. Se Pasolini fosse stato a 2 nostri raduni, ci avrebbe investito di invettive, ma sarebbe diventato uno dei nostri capi. E proprio sul tema educativo, così decisivo per entrambi, citerà spesso una frase di Pasolini. Se qualcuno invece ti avesse educato, non potrebbe averlo fatto che col suo essere, ma col suo parlare. Giussani prenderà Pasolini come esempio per descrivere la parabola di tanti loro coetanei, erano nati entrambi nel 1922, figli della tradizione cattolica ricevuta dalle loro madri e da essa allontanatisi per una mancata educazione successiva. A questa frattura, della quale è stato testimone Pasolini, Giussani fa riferimento al 12 ottobre 1975, 2 settimane prima che lo scrittore venga ucciso. Il delitto del nostro tempo è d'aver provocata, poi teorizzata, quindi resa sistematica, la rottura fra la coscienza religiosa del popolo, migliaia d'anni l'avevano costituita, e la situazione umana che il popolo deve vivere. Perché la rottura fra queste due cose divide l'uomo, spacca l'uomo. Perché l'uomo vive del problema del pane e del companatico, vive del problema dei figli e della difficoltà d'un matrimonio umano. Vive di questi problemi. Vive del problema di una società in cui ci sia libertà espressiva per i sentimenti naturali. Ebbene, la società di oggi pretende di affrontare questi problemi a prescindere, astraendoli, strappandoli via da quel sentimento del cuore che costituisce il luogo dell'unità di tutto. Nel libro, tra l'altro, si parla del rapporto burrascoso che con CL ebbe padre David Maria Turoldo, un altro protagonista della spiritualità del Novecento, che così criticava CL, traggo la citazione dal libro che vi ho ricordato. Turoldo criticava il capo carismatico, il rigore estremamente verticistico, sottolineava il fatto che non fosse ammessa nessuna critica al movimento e temeva che CL rappresentasse un fenomeno di ritorno alle vecchie tentazioni integralistiche, di riesumazione dell'associazionismo cattolico. E su Turoldo esce un libro di Paolo Zanini dell'Università degli Studi di Milano che si intitola David Maria Turoldo nella storia religiosa e politica del Novecento, pubblicato dalle Paoline, 202 pagine, 20 euro. In questo libro così si spiega la posizione di Turoldo. Turoldo contestava in CL il richiamo a una chiesa astorica, lontana dalla realtà, perfetta e senza peccato, cui egli contrapponeva, scrive l'autore, la propria idea di una chiesa piena di peccatori, povera e lacera, ma incarnata nel mondo contemporaneo. E questo è l'aspetto che l'autore in particolare vuole mettere in luce, proprio lo sforzo di Turoldo di costruire l'idea di un cristianesimo capace di incarnarsi nel mondo contemporaneo. Al centro c'era la fede nella persona umana, che lo portò anche a diffidare fortemente dello Stato in anni particolarmente delicati, come gli anni nei quali lo Stato era impegnato a combattere il terrorismo, una posizione che Turoldo non apprezzò e non condivise. E naturalmente questo lo mise al centro di molte polemiche, lo collocò in minoranza molto spesso, fino a una finale riconciliazione con la Chiesa ufficiale attraverso il Cardinal Martini e l'allora Monsignor Ravasi. A proposito di spiritualismo, vi offro una versione spiritosa di spiritualismo con un libro, un almanacco di Jean Blanchard che si intitola Un santo al giorno, è pubblicato da Rizzoli, 408 pagine, 30 euro. L'autore è un artista e gallerista che ci ripropone un almanacco in cui giorno per giorno troviamo l'immagine dipinta china del santo del giorno e alcune brevissime note illustrative. La nota di un religioso all'introduzione del libro, Fra Paolo Garuti, colloca questo libro sui santi all'interno di un'antichissima tradizione qui reinterpretata alla luce dell'arte e della grafica moderna. Oggi in particolare è Sant'Ignazio da Santià, cappellano capo dell'esercito sabaudo di Carlo Emanuele III, re di Sardegna, sacerdote dei frati minori cappuccini, assiduo nell'ascolto dei penitenti e nell'assistenza ai malati. E a questo punto il confettino. Vi segnalo alcuni titoli, per la verità non recentissimi, in occasione del lancio di una serie di trasmissioni per bambini dedicati al tema della filosofia. Questo è un programma della BBC che va in onda sul canale 621 di Sky e che riadatta per lo schermo i libri di Oscar Brenifier e con le illustrazioni di Jacques Depré. Vi segnalo alcuni titoli di questa serie, il libro dei grandi contrari psicologici, per esempio La coppia idealista e realista, che costa 19 euro, il libro dei grandi contrari filosofici, per esempio Libertà e Necessità, che costa 14 euro ed è stato tradotto quest'ultimo da Francesca Novaira, il libro dell'amore e dell'amicizia 10 euro, il concetto di Dio 12,50 euro, il senso della vita 12,50 euro, il bene e il male 12,50 euro, tradotto come tutti gli altri che ho citato da Lorenzo Betta. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione, Valeria Bernardi in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.